Non te l'aspettavi bro, non mi rispettavi no. Tu che predicavi ed elemosinavi blow. So che criticavi ma tacevi all'evidenza l'esistenza di una genga, spinta come i manga che vi manda con la gazza. Bianca stretta in guancia, tu scarica mia palla e stampati sta punchline. Parla parla mala mala, non mi infame. Se la fama non m'aggrada non mi grava. Questa è street life. Rimo il mondo in un secondo, se risponde. Ed ogni giorno nell'affronto sangue grondo. Ai ai. Una bocca qui si chiude, uno stronzo qui si illude. Da una zona dove ancora vive la palude. Lessico, drastico, tecnico al massimo. Massimo decollo per il collo, su e giù classico. Tu per tu con il crew meno elastico. Rap kung fu, che Belzebulo mastico. Mi sbatto le battole, abbatto ogni babbo. Il fatto è che tanto la fotta non l'hanno. Sana in coscienza, sana in coscienza, sana in coscienza e con macchio violento. Mi sbatto le battole, abbatto ogni babbo. Il fatto è che tanto la fotta non l'hanno. Sana in coscienza, sana in coscienza, sana in coscienza e con macchio violenta. Tiro stecche a mezze checche sul tatami. L'ispanico nel panico va manico e non fiati. Se scarico, se scardi, non vuoi babbi complessati. Bravi a sputtanarmi se ci dice lo fanati. Mai visto su Sky, dammi del venduto. Ho venduto meno copie di un disco dei B.I. E non capisco come mai non valli uno sputo e sputi su tutto. Bello, vai, vai. Se vinco, mica mi incoronerai. Numero uno dei nessuno. Nel 2001 parto allievo, mi alleno ed elevo. Pieno, flusso alieno che allevo in area 51 e strippo. Per mister striptease, con slip da shit bitch. Poi sex on the beach, dopo un sex on the beach drink. Sopra il beat, sette lì di street, macete king. Ragazzi, sana in coscienza, mixtape Desolandia Express. Max Macete, original 9 periodico nel posto. Per il craiano, l'afgano, per la gente di Comacchio che impenna col booster e che non usa il preservativo. Ci becchiamo tutti quanti in spiaggia a sbronzarci e a trombare gratis. Bella a tutti. Ciao!